Il signor Verdurin riprese con voce dolce, rivolgendosi sia a Sagnette che a Brichot. È del resto una commedia graziosa, la Chercheuse d'Esprit. Pronunciata in tono serio, questa semplice frase, nella quale non si poteva trovare traccia di cattiveria, fece a Sagnette altrettanto bene e suscitò in lui altrettanta gratitudine d'un gesto di gentilezza. Non riuscì a proferire una sola parola e tacque felice. Brichot fu più loquace. È vero, fece eco a Verdurin, e se la si facesse passare per l'opera di qualche autore sarmata o scandinavo, si potrebbe avanzare la candidatura della Chercheuse d'Esprit al posto vacante di capolavoro. Ma, sia detto senza mancare di rispetto ai mani del delicato Favart, egli non era di temperamento ibseniano e arrossì di colpo fino alle orecchie pensando al filosofo norvegese che aveva un'aria infelice perché, in un vano sforzo di identificazione, si chiedeva quale vegetale potesse mai essere il bosso che l'erudito aveva citato poco prima a proposito di Bussière. D'altronde, poiché la satrapia di Porel è attualmente occupata da un funzionario che è un talstoiano di rigorosa osservanza, ci potrebbe capitare di vedere sotto l'architrave odoniano Anna Karenina o Resurrezione. «So di quale ritratto di Favart intendete parlare», intervenne il signor di Charlus. «Ne ho visto una bellissima copia dalla contessa Molé». Il nome della contessa Molé produsse una grande impressione su Madame Verdurin. «Ah, frequentate Madame de Molay!» esclamò. Pensava che si dicesse la contessa Molay, Madame Molay, soltanto per abbreviazione, così come si sentiva dire i Rohan, oppure per disprezzo, come lei stessa diceva, Madame la Tremoille. Non dubitava affatto che la contessa Molay, la quale conosceva la regina di Grecia e la principessa di Caprarola, avesse diritto alla particella più di chiunque altro, ed era decisa una volta tanto a riconoscerla a una persona così brillante e che si era mostrata molto gentile nei suoi confronti. Ribadì quindi, per sottolineare che non aveva parlato a vanvera e non lesinava, quel de alla contessa, ma proprio non lo sapevo che conosceste Madame de Molay, come se fosse stato doppiamente straordinario e che Charlus conoscesse quella dama, e che Madame Verdurin non ne fosse informata. Ora, l'alta società, o perlomeno ciò cui Charlus dava questo nome, forma un tutto relativamente omogeneo e chiuso. Mentre è comprensibile che, nella disparata immensità della borghesia, un avvocato dica a un tale che conosce un suo compagno di collegio: «Ma come diavolo fate a conoscerlo?» Considerare stupefacenti le circostanze grazie alle quali il signor di Charlus s'era incontrato con la contessa Molay sarebbe poco meno stravagante che meravigliarsi che un francese conosca il significato delle parole tempio o foresta. Inoltre, quand'anche una tale conoscenza non fosse derivata affatto naturalmente dalle leggi mondane, ma fosse stata fortuita, cosa ci sarebbe potuto essere di bizzarro nel fatto che Madame Verdurin la ignorasse, dal momento che vedeva Charlus per la prima volta e che i suoi rapporti con Madame Molay erano ben lungi dall'essere la sola cosa che non sapesse di lui, del quale, per dire il vero, non sapeva niente. «Chi recitava in quella Chercheuse d'Esprit, caro Sagnette?» chiese il signor Verdurin. Pur sentendo che il temporale era passato, l'ex archivista esitava a rispondere. «Ma si capisce», osservò Madame Verdurin. «Lo intimidisci, ti fai beffe di tutto ciò che dice, poi vorresti che ti rispondesse». «Coraggio, ditecelo. Chi recitava? Vi daremo della galantina da portare a casa», aggiunse Madame Verdurin, alludendo malignamente alla rovina in cui Sagnette era caduto nel tentativo di impedire che ci cadesse una coppia di suoi amici. «Ricordo solo che Madame Samary faceva la zerbina», rispose Sagnette. «La zerbina? Che roba è?» gridò il signor Verdurin come se fosse scoppiato un incendio. «È un riferimento al vecchio repertorio Pensate al Capitan Fracassa. È come dire lo Spaccamonti, il pedante. Ah, ma siete voi il pedante. La Zerbina, no, no, è proprio tocco, esclamò il signor Verdurin. Madame Verdurin guardò i commensali ridendo, come per scusare Saniette. Lui si figura che tutti sappiano subito cosa vuol dire la Zerbina. Siete come il signor Longpierre, l'uomo più stupido che io conosca, il quale l'altro giorno ci diceva familiarmente il banato. Nessuno ha capito di cosa intendesse parlare. Finalmente si è saputo che era una provincia della Serbia. Per mettere fine al supplizio di Saniette, che mi faceva più male che a lui, chiesi a Brichot se sapesse cosa significava Balbec. Balbec è probabilmente una corruzione di Dalbec, mi rispose. Bisognerebbe poter consultare le carte dei re d'Inghilterra, signori della Normandia, giacché Balbec dipendeva dalla baronia di Dover, ragion per cui si diceva spesso Balbec d'Outremer, Balbec en terre. Ma la baronia di Dover era a sua volta soggetta al vescovato di Bayeux e, malgrado alcuni diritti che i templari vantarono per breve tempo sull'abbazia, a cominciare da Louis d'Harcourt, patriarca di Gerusalemme e vescovo di Bayeux, furono i vescovi di questa diocesi i collatori dei beni di Balbec. E quanto mi ha spiegato il decano di Deauville, uomo calvo, eloquente, chimerico e buongustaio, che vive nell'obbedienza di Brillat à Varennes e m'ha esposto con termini un tantino sibillini qualche incerta teoria pedagogica, facendomi mangiare intanto delle mirabili patate fritte. Mentre Brichot sorrideva per sottolineare come fosse spiritoso unire cose tanto disparate e impiegare per cose comuni un linguaggio ironicamente elevato, Saniette cercava di piazzare qualche battuta di spirito capace di risollevarlo dalla sua recente prostrazione. La battuta di spirito era quel che si chiamava un super giù, ma aveva cambiato forma perché c'è un'evoluzione per i giochi di parole come per i generi letterari, le epidemie che spariscono sostituite da altre, eccetera. Una volta la forma del super giù era il colmo, ma adesso era desueta, nessuno la usava più, non era rimasto che Cotard a dire ancora a volte nel mezzo di una partita di picchetto: sapete qual è il colmo della distrazione? Prendere la Magna Carta per una signora spagnola. I colmi erano stati sostituiti dai soprannomi. In fondo era sempre il vecchio super giù, ma siccome il soprannome era di moda, nessuno se ne accorgeva. Purtroppo per Saniette, quando i super giù non erano farina del suo sacco, e in genere il piccolo clan li ignorava, lui li proferiva così timidamente che, malgrado la risata da cui li faceva seguire per segnalare il loro carattere umoristico, nessuno li capiva. E se al contrario la battuta era sua, poiché di solito gli era venuta in mente conversando con uno dei fedeli, questi l'aveva ripetuta appropriandosene e così era già conosciuta, ma non come di Saniette. Quando dunque ne azzardava qualcuna, veniva riconosciuta, ma proprio perché ne era l'autore, lo si accusava di plagio. Orbene, riprese Brichot, Bec, in normanno, è ruscello. C'è l'abbazia di Le Bec, Mo Bec, il ruscello della palude, Mor o Mer, voleva dire palude, come in Morville, oppure in Briquemar, Alvimar, Cambremer. Briquebec, il ruscello dell'altura, che viene da Briga, luogo fortificato, come in Briqueville, Briquebeau, Le Briques, Briand, ovvero da Brice, ponte, che è l'equivalente del Brook, tedesco, Innsbruck, e dell'inglese Bridge, che termina tanti nomi di luoghi, Cambridge, eccetera. Sempre in Normandia trovate parecchi altri Bec, Codebec, Bolbec, Lerobec, Le Bec-et-Loin, Becquerel. È la forma normanna del tedesco Bach, Offenbach, Ansbach. Varagebec, dalla vecchia parola varagne, che equivale a garenna, boschi, stagni riservati. Quanto a dal, continuò Brichot, è una forma di tal, valle, Darnetal, Rosendal, e fin dalle parti di Louviers, Bechtal. Il fiume che ha dato il suo nome ad Albeck è del resto incantevole. Visto da una scogliera, Fels in tedesco, avete anche non lontano da qui in cima a un colle la graziosa città di Falaise, esso appare vicino alle guglie della chiesa, situate in realtà a grande distanza, e sembra che le rifletta. «Lo credo», osservai, «è un effetto che piace molto a Elstir. Ne ho visti parecchi schizzi nel suo studio». «Elstir? Conoscete Tisch?» esclamò Madame Verdurin. «Ma sapete che l'ho conosciuto molto, molto intimamente? Grazie al cielo non lo vedo più. Ma chiedete, chiedete a Cotard, a Brichot. Aveva il suo posto fisso a tavola da noi, veniva tutti i giorni e si può proprio dire che non abbia fatto un affare lui lasciando la nostra piccola cerchia. Vi mostrerò fra poco dei fiori che ha dipinto per me. Vedrete che differenza rispetto alle cose che fa oggi e che non mi piacciono per niente, ma proprio per niente. Pensate che gli avevo fatto fare un ritratto di Cotard, senza contare tutti i quadri per cui si è ispirato a me. Al professore aveva fatto i capelli color malva», intervenne Madame Cotard, dimenticando che a quei tempi suo marito non era nemmeno agrégé. «Chiedo a voi, signore, se vi sembra che mio marito abbia i capelli color malva. Questo non ha importanza», replicò Madame Verdurin, alzando il mento in segno di disprezzo per Madame Cotard e di ammirazione per colui del quale stava parlando. «Era l'opera d'un formidabile colorista, d'un bel pittore, mentre», aggiunse rivolgendosi nuovamente a me, «non so se la chiamate pittura voi, quelle grandi avolerie di composizioni, tutta quell'ingombrante mercanzia che espone da quando non viene più a casa mia. Per me è un mucchio di scarabocchi ed un banale, e poi manca di rilievo, di personalità. Ci sono tutti quanti là dentro. Recupera la grazia del Settecento, ma moderna», disse precipitosamente Saniette, tonificato e rimesso in sella dalla mia cortesia. «Ma gli preferisco Eye». «Non ha niente a che vedere con Eye», ribatté Madame Verdurin. Ma sì, è un Settecento febbrile, un Watteau a vapore. Oh, sentita, strasentita, sono anni che me la propinano», disse il signor Verdurin, al quale in effetti Schi l'aveva già raccontata tempo prima, ma come farina del suo sacco. «Peccato che per una volta che pronunciate in modo intelligibile qualcosa di abbastanza divertente, non sia roba vostra». «Mi dispiace», riprese Madame Verdurin, «perché era una persona dotata, ha sprecato un bel temperamento di pittore. Se fosse rimasto qui, sarebbe diventato il primo paesaggista del nostro tempo. Ed è stata una donna a trascinarlo così in basso. Non mi stupisce d'altronde, perché l'uomo era simpatico, ma volgare. In fondo era un mediocre. Vi dirò che l'ho sentito subito. In fondo non mi ha mai interessato. Gli volevo bene, ecco tutto. Tanto per cominciare, era uno sporco. Le amate molto voi, le persone che non si lavano mai? Cos'è questa cosa dalla tonalità così squisita che stiamo mangiando?» domandò Schi. «Si chiama mousse alla fragola», rispose Madame Verdurin. «Ma è incantevole. Bisognerebbe far stappare delle bottiglie di Chateau Margaux, di Chateau Lafitte, di Porto. Non so dirvi quanto mi diverta. Non beve altro che acqua», disse Madame Verdurin per dissimulare sotto lo spasso procuratole da tanta fantasia lo spavento ispiratole da tanta prodigalità. «Ma non per bere», riprese Schi, «ne riempirete tutti i nostri bicchieri e ci farete portare meravigliose pesche e enormi duracine. Là, di fronte al tramonto, sarà qualcosa di lussureggiante come un bel veronese e costerà quasi altrettanto», mormorò il signor Verdurin. «Ma togliete quei formaggi dagli orrendi colori», esclamò Schi, cercando di impadronirsi del piatto del padrone, che difese il suo gruviera con tutte le sue forze. «Capite bene come non rimpianga Elstir», mi disse Madame Verdurin. «Quest'altro è ben più dotato. Elstir è il lavoro, l'uomo che non sa staccarsi dalla pittura quando ne ha voglia. È lo studente modello, l'animale da concorsi. Schi, invece, non bada che alla sua fantasia. lo vedrete accendersi una sigaretta nel bel mezzo del pranzo. Ripensandoci, non capisco perché non abbiate voluto ricevere sua moglie, disse Cotard. Sarebbe ancora qui come una volta. Volete evitare di dire sconcezze, voi? Non ricevo sgualdrine in casa mia, signor professore, replicò Madame Verdurin, la quale per contro aveva fatto tutto il possibile perché Elstir tornasse persino con la moglie. Ma prima che si sposassero, aveva cercato di farli litigare. Aveva detto a Elstir che la donna che amava era stupida, sudicia, poco seria, che aveva rubato. Per una volta la rottura non le era riuscita. È col salotto Verdurin che Elstir aveva rotto. E se ne rallegrava, come i convertiti benedicono la malattia o i rovesci che li hanno costretti al ritiro e hanno indicato loro la via della salvezza. «È impagabile, il professore», aggiunse la padrona. «Insinuate pure allora che il mio salotto è una casa d'appuntamenti, ma si direbbe che non sappiate cosa sia Madame Elstir. Preferirei ricevere la peggiore delle puttane. No, grazie, non è il mio genere. Del resto, vi dirò che sarei stata tanto più stupida a chiudere un occhio sulla moglie in quanto il marito non mi interessa più, è superato, non c'è neanche più disegno in quel che fa». «È stupefacente in un uomo di una tale intelligenza», osservò Cotard. «Oh no», replicò Madame Verdurin. «Anche ai tempi in cui aveva talento, perché ne ha avuto il furfante e da vendere, ciò che irritava in lui è che non era affatto intelligente.